Sì, diciamo che sono un mix tra nord e sud, perché mio papà è siciliano e da lui ho preso la cocciutaggine, la testardaggine, il fatto di non mollare mai di fronte alle difficoltà. E da mia mamma invece, che è altoatesina, ho preso un carattere molto, che sono molto precisa, puntigliosa, puntuale. Insomma, ho preso un mix da nord e sud. Direi anche un bel loro che, come tu hai voluto sottolineare subito già sul podio di Parigi-Bercy, è anche un bel regalo all'Italia che festeggia i 150 anni. Sì, appunto, sono molto orgogliosa di essere italiana e di poter rappresentare sportivamente l'Italia nel mondo e quindi anche all'estero. E poi è un'emozione grandissima salire sul podio e poter cantare l'inno di Mameli, è stata un'emozione fortissima. Quella è la nostra storia, la nostra cultura, è gente che è morta per noi, per far sì che l'Italia fosse unita.